Gesù è la luce che c'è in te, in me, in noi. Gesù è la fede che c'è in te, in me, in noi. Gesù è la forza che c'è in te, in me, in noi. Gesù è l'acqua che c'è in te, in me, in noi. Gesù è la fonte che c'è in te, in me, in noi. Gesù è il porto che c'è in te, in me, in noi. Gesù è la torre che c'è in te, in me, in noi. Gesù è la roccia che c'è in te, in me, in noi. Gesù è la luce che c'è in te, in me, in noi. Gesù è la fede che c'è in te, in me, in noi. Gesù è la forza che c'è in te, in me, in noi. Gesù è l'acqua che c'è in te, in me, in noi. Gesù è la fonte che c'è in te, in me, in noi. In noi.